attenzione, 23 c'è qualcuno. E chi può essere? Buonasera. Buonasera, signor Gio Maria. Allora, cosa state racconti stasera? Cosa dovete racconti? Tutto così? Tanti saluti dal signor Marino. Come? Tanti saluti dal signor Marino. Grazie, Riccardi. Ecco, vai, telefonato chi ha? No, l'ho trovato stasera. L'ha trovato, ma c'ha fatto quello. Io stavo tornando con il cane. E si è filmato. Ma ha detto di salutarti e di scusare se non si fa sentire, perché c'è la suocera che sta male. Mi ha mandato il messaggio a Ferragosto, ma io messaggi non riesco a mandare, perché l'ho telefonato ma non mi ha risposto. Però già mi ha dato gli auguri per Ferragosto, capito? Non ti potevo rispondere perché mi ha detto, dice, che ero in ospedale, però già l'ha letto che eri tu. Ah, ecco. Come sta? Bene, sì? Sì, la suocera è che non sta bene, è un po' così, quindi è salito a casa della suocera. Ah, ecco, e vabbè, almeno ci ha fatto vedere, quindi sto portato, va. E ripeto, a me mamma ha dato gli auguri di Ferragosto, però io l'ho telefonato perché messaggi non riesco a mandare nel telefono, capito? No, va bene così, so. Sì, va bene. No, ma tanto c'è lui. La si farà sentire più avanti, mi ha detto. Non sta più bene. Speriamo che sia bene la sua, c'era allora. E dopo gli si farà sentire. Ma mi sembra che deve aver dato un po' poltrone anche lui, non ne ha più voglia, so. Poi magari ci saranno le conseguenze in casa, cosa vuoi fare, purtroppo problemi ci sono sempre. Sì, quello sì, purtroppo è così. E quindi cerchiamo di stare bene, un po' garibbe. Andiamo avanti. Infatti. Così è successo anche a Graziano, guarda. Tre telefonate, la faccia non mi rispondeva, si attaccava alla segreteria. So che non stava bene, era ricoverato. Però dopo stava migliorando e gliel'hanno portato a casa. Se l'è fatto la quarta volta e mi ha risposto la figlia al telefono in messaggio che lui non poteva rispondere, che si trovava in poche parole non tanto bene, per cui ha se l'è fatto la figlia, capito? Ma dice che non stava bene. Sì, vabbè, se non sta bene è meglio che si riposi. Ma almeno ti ha risposto la figlia. Sì, perché lui non parlava, mi sembra, poi ho capito. Però dice, sta migliorando adesso. Adesso deve fare la risonanza, dice, e sanno anche da che cosa dipende questo dolore al braccio, capito? Infatti, è così. Va bene, vedo che si rimetta. Anche lui mi ha messo spesso. Però io mi ha messo spesso, ma speriamo bene. Perché è giovane ancora, Sì, infatti, è giovane. Oh. Penso di sopra, comanda Edo. Purtroppo, la vita è così. E me lo trasmetti adesso i malanni. Vabbè, speriamo bene. E così è. È a marito che si è fatto sentire, va bene, almeno si è fatto vedere, dai, lo portato. Magari capace che stava passando così, ci ha trovato magari vagamente, dai. Io stavo facendo col cane, era passando in macchina, ma con pulisci della via, che di solito con la macchina Giulia, invece era con la macchina della pellura. Ah, ecco. Lui mi sembra che sta la panda, no? Lui c'ha la panda, però la figlia c'ha un'altra macchina rossa, c'ha una Y. Ah, ecco, così che non sta per le cose. E già si è fermato, è meglio quindi. E l'importante è che stia bene, dai. Sì, a stare bene già fa di bene. Quindi stava andando dalla suocera, stava andando a casa della suocera. Alla stagione è ricoperata oppure a casa sua? Prima era ricoperata, adesso è a casa sua. Ah, ecco. Ah, meglio così, va, vuol dire che sta più bene. Meglio così. Ogni tanto ci sentiamo solo con una parte o con l'altra, ragazzi. E ora rispetto a me, ma mi ha mandato gli auguri al Ferragosto, però non lo potevo mandare il messaggio perché io non riuscivo ad andare. Allora ho telefonato, anche se non mi ha risposto, già si è trovata la telefonata. Va bene. Ma ci siamo sentiti lo stesso, a me ma due io ho già un daedro. Quindi va bene, una mezz'ora che siamo rimasti, va bene. E tanto lei si attacca la parlantina, già ce l'ha, grazie a Dio già ce l'ha la parlantina. Andiamo alla bici. Piace a chiacchierare, è meglio così, almeno se ci piglia il sonno, non so. Infatti, non ti c'è più la ragione, non è no. Ma è giù, inteso, è più di un mese che non intendo più a Natalino. È vero, almeno io non sento più, boh. Ma evidentemente non sta bene, va. Certo, hanno fatto questa operazione, evidentemente, boh, non lo so. Cosa faccio più sentire? Vede che non sta bene. Io so che lo dovevano ricoverare dopo Ferragosto. Ah, boh, mi sei fatto ben intendere? Non l'ho sentito nemmeno io, forse forse io attendo e faccio sì, anche. Sto curato sento, ma lui lo sa parecchio lo sento. Molto prima di Ferragosto. Ah, speriamo che stia bene. Infatti così. Va bene. Non si farà sentire. No, se uno si sente male, si attacca a paracino. Già vi ho sentito che stava spesso lamentando, dove in qua, dove in là. Spero già tutto. E non è che venga la voglia a accendere il paracino. Infatti così. Purtroppo non mi vorremmo fare nulla. Infatti, non sapeva niente. Mi chiedeva, la ragazza fa e se ne la fa. Diversamente si può fare niente. I malati ci sono e ci saranno. Magari non è che si possa guarire. Secondo malati magari si guarisce. Ma secondo cosa è, non è facile una certa età. Infatti, va bene. Grazie, dovremmo riservarli, adesso, dalla... Fabio, sembra Fantini, mi sembra che sia l'Antonello, Cantocera, e un altro che non lo riconosco, sì. Pensavo chiacchierando, sì, ma mi sono spostato, sì. Perché ero almeno una mezz'oretta e tra di loro chiacchierando per cui si vede che c'era qualche lato, ha visto l'assente, era in assente, dopo l'hanno chiamato e non ha risposto, perché avevano delle cose forse molto importanti tra di loro, per cui facciamo così. Sono stato così. Tra cose, cazzo, qualche mese, già 2 mesi che non lo sentiamo a fare. Oh, io l'ho sentito l'ultima settimana di luglio, l'ho sentito. L'ultima settimana di luglio l'ho sentito. Poi mi ha detto che doveva andare fuori e non ha giubito. Forse era guai. Forse è andato nella Hawaii, così che ancora non è tornato. Quando si sa che io torno. Vabbè, in Galuguè, mi dice già di vicendere. Non sono tutti che ce lo possono permettere. Infatti, non sono tutti. Sì. Però ognuno si permette a modo suo, o più o meno, o no. Infatti, o più o meno siamo così. Faccia ancora acqua, magari sta facendo caldo, tutti se ne vanno al mare e la pericolo lasciano farsi, capito? Si fanno la scampagnata al mare, cazzo, e per cui già rientrerà un tempo fresco, va? Infatti, già rientrerà, no. Non si farà sentire prima o poi. Vabbè. Troppo. Io già sono sempre qua. Qualche volta capita che anche la gente non lo accende, ma io lo accendo sempre, tu lo sempre, magari fino alle 8:20, alle 8:20, o qualche giorno dopo magari spengo. A cui caro guerrero, sì, perché ancora è dentro e magari accoglio se non voglio parlare, ma cioè, dove va? Lui la picchiare a carogna, so. La carogna sì, che bisogna ciapparla, chissà. Prima io metto io a chiacchieravo, anche ore e ore, anche in senso cazzata, però mi piaceva chiacchierare. Avanno, oi, avanno, mi sono 20 minuti per andare giù, mi confutto. Perché non basta che ci muova più bene avanti? Anche troppo, so. Anche troppo, ora, poi, durante il giorno, la accendi, non c'è nessuno, magari ci sarà qualcuno di fuori, ma non mi interessa, capito? Per cui allora tengo tutto e tira a campa. Lui ci facciamo la chiacchiera, stava poco però, almeno 2 chiacchiere e ammazziamo una mezz'oretta, va. Infatti così, una mezz'oretta è buono. Certamente. Fare il discorso lungo, che lo fa? Può capitare qualche volta, 10 minuti, ma la bocca i cracchi non viene più gara, va. E così la vita. Da giovane sì, a piaceva chiacchierare come, cazzo, non finire allora, lo mandò a mezzanina a sentirlo. Vabbè, dobbiamo fermarci così. Parecchio, sono ritirato. Mi chiaro, il telefono adesso ha superato tutti gli ostacoli e non era chi vuole. Ma c'è qualche persona che ascolta e non parla, non so. E adesso? Io ho detto, cos'è che stavi dicendo? L'ultimo pezzo non ti ho sentito. Ho detto, chissà quanti telefoni qui dicono che stanno ascoltando, però non entrano. Anche più belli. Vuol dire che sono ascoltoni, sarebbe già questa. Cosa vuoi di più? Qualcosa è. Qualcosa è. Magari non entra a sentire ciò che dicono gli altri. Fatto così, non fa bene. Infatti, a fargliene bene così. Vabbè. Così sono, così rimani. Se vuoi entrare, entra, se no, se rimani in gallo così. Forza maggiore. Io mi faccio per pensare di arrivare su 2 euro. Infatti. faccio da 60 un po' su 2-3 di segnale da fuori si sentono. Oh, non senza nessuno io, non senza nessuno, è solo con le cuffie, eppure non senza nessuno. Evidentemente dalla parte tua c'è più ricezione. Ah, deve essere, mi sento 2 o 3 li sento di segnale. E allora da fuori la propagazione, ma non è che mi dice assai propagazione utile, però meno. Ho fatto la spazzolata, qua con le femme, c'è. Oh, è da dove è, boh? Sì, lo senti. Poco poco, ma già si intende. È già che francese, per il mezzo. Aspetta che sei, vediamo un po'. Oh, silenzio completo, qua no, se non arrivano qua. Ti pare che c'è più ricezione? Ma deve essere che questa parte sentono di più, boh? E vabbè, quindi che ti rimane in musica? È importante che ci sentiamo noi. Siamo in ballate di mura. Aspetta, facciamo cantare di mura. Infatti. Vuoi dire no, che va arrivare in bassi bassi, va arrivare. E vabbè, sono bassi bassi, meglio così. Bene, bene. Aspetta, parlo. Quando c'è propagazione buona ti arriva le forze pure, certo, però oggi non le sento, forse tu non sento solo appena il corrente, 5-4, 5-4. C'è un pochino il corrente anche, però adesso non li sento. Sentite, penso che si sono allontanati. No, è la propagazione, va e viene, sto. È la propagazione. Infatti, è la propagazione che c'è, che va e viene. A momenti è forte, a momenti no. E magari sul canale anche ci sono, perché sul canale anche tu, che se ne sono pariti. Beh, che ci va lì, certo. Sta a fare la OI, e magari farmi la... a fare gli ex, non saranno, è un tempo cazzo, non ti dico più niente, cazzo non dormia ma fa cagliare attaccata a chi sta giusto, ma dromma torni tutto. Infatti così, se li vuole dire vattene, capo se vi fa sì, ho finito. Eia, comunque, non so. No, si sta bene invece. Se ti no che se fai giudendo, prendi no, fino a facciamo qua un po' di l'arietta. Io ho aperto tutto io qua, è tutto aperto. L'arietta passa, dai. Aspetta. Si sta bene qua, ecco. E tu apri tutto, vedrai che l'arietta passa. Se vuoi entrare, entra, se no pazienza. Stiamo andando da voi pure. Hai ragione, oddio, e beh già sei uscita allora oggi. Stamattina per la spesa e poi stasera ho accompagnato mia figlia e i miei nipoti al cinema. Io pure sono uscito, siamo andati lì a Ricenza a fare una vita da voi e per cui... All'inizio eravamo a casa. Infatti, io il prossimo mese ho la visita di controllo cardiologica, devo fare con alcuni esami, devo portare e poi devo fare il piano terapeutico nuovo. E dove fai la vista cardiologica? Cardiologica la devo fare via Diaz, la devo fare da dottor Armenamento, mentre si chiama. Ho capito, dopo. E già la mando io, non so, per la sinistra salendo. Beh. Ma come mai? E buonasera anche lì, signor Antonio. Ehi, a capo, preparando a mangiare che c'ora. Guardate, noi mangiamo più tardi. A noi si becca da buli. Lo so. Avame, stanno tutti i tortellini alla panna. Intanto già mangia tutto mio figlio, quindi molto difficile stanotte. Sì, andate bene, già va benissimo. Buonasera Gio Maria. Ehi, ciao Lazio, buonasera. Cazzo, fame, cazzo, sta per i servizi, cazzo. Così presto mangi? Eh sì, noi mangiamo presto, mangiamo. Cazzo, hai che bisogno, hai che bisogno se torna a fare, o no? Cappa, cappa, io sono preparando ancora. Ah, allora, già. Allora, già subito allora della pappa. Va bene, poi quando c'è fame bisogna mangiare, c'è poco da fare. E così è. La cuoca l'ho mandata in ferie. Come? E la cuoca l'abbiamo mandata in ferie. Ah, così è. E beh, meglio così, così è so. Ero grido, ci ha mandato in ferie, ci devi preoccupare dopo. Piano piano, già si vede che anche lui già sarà abituato adesso, perché... E poi chi è che non si adatta a farsi da mangiare, cazzo? Alla fame bisogna darsi il fatto. Infatti è così. Quando è fame bisogna che fa, passate un mese già pronto. E allora? Ma è il bambino tutto mangia tu. E Antonio sta preparando allora. E così è so. E infatti è così. E vabbè. Ma non fa nulla. Ah sì. Cazzo, adesso si deve andare a fare piano piano, poi c'è il bambino che è molto importante, per cui bisogna a tenerlo conto, infatti piano piano già cresce il bambino, poi e adesso crescono subito, so. Cazzo, i sentimenti non cristiani mai, sto virando l'ordine allora per diventare un mando. Ah, ma che sono grado se c'è dai, voi vuoi riempire il figlio, fate più bene. Così era io, piano piano, gli accresci, anno per anno sono passati, e ora sono mando. Tu hai sentito che già cucinare sto, o no? Ma che vuota, sì. Ma che vuota preparo io, ma che vuota... mi trattengo. Se no che tocca preparare io. Cosa la fai? Se no te ne guardo nessuno. Ma dove cazzo tutti? Certo. Se non è che la gente la baffa bronca, allora si trova poco. Bisogna adattarsi alle cose, a maxi pari. E infatti così. Bisogna adattarsi. No, piano piano, già si dirà da anzi. E ha fatto ragione. Poi, a dove fare? Non mai da cosa mangia, e cosa non mangia, Se hai tirato un sacchetto e basta, e tira da rato. Fate così. Ma tutto mangia il bambino, quando si è allontanato. Se c'è la fede alla pappa, lo pizzino. Ma è bellissimo, Va, penso che mangia tutto. Infatti. Penso che si mangia tutto, vabbè. Stanno piano, già cresce. Non so come c'è prima, ma lasciati già esperti, so. Infatti, fate così. Ma sono già esperti. E allora, prima di aprire il locale a farci stavano le reali più, no? Siete, andiamo qui, andiamo. E allora, certo, assistente, cacciate il distimio, boh. E capire, e che ripetere tanti i piattanti che mi sono là. E se mangiare da cosa sono e basta, e tira da l'altro. Sì, infatti è così. Giorno per giorno le vedi felici. Ho capito che la zafferita, la pubblicità della San Benedetto. La zafferita. Dai, faccio bianco per me, dai, che va a cucinare. macinando la pasta, ok. Ci sentiamo Antonio, alle prossime, ok, ciao. No, c'è oggi tortellini con prosciutto e panna. Mio figlio ha detto che va bene. Che grido, che non è fammi, sì. E ad un fame, cazzo, si trincia tutto, cazzo, oia, per carità. Oia, io so cos'è per piccoli seri, so. Io ci tanto, sa che cos'è sta, la bocca in bocca, cazzo, una carica tua. Che voce, che spera, o che bella, ma bella sono con me che non le mai. Cazzo, allora cazzo la goccia, però c'ho questo tempo di quel tempo. Fai bene? No, io faccio il merenda verso le 5, 5 e un quarto, e poi a Sanutti all'otto a mangiare. Di cenare, capito? Sì, quello sì, infatti è così, quello sì. È un po' caldo, insomma. Sì, te giurai, tanto perché finendo la ovvia. A parte che vuole entrare, eventualmente gli ho giunti di dolori e ha cantato tutto. Da fuori a giornare da paesi lontani e da fuori a essere sì, paesi lontani, quindi non comprendiamo con la lingua lì. Ma che è il ravetto? Non ho capito bene. Hai che? Non lo comprendo, no. Se vuoi farvi dare il sassareggio, me lo dica. Ma io, quasi in inglese, se lo fa vedere, quindi io non lo mato in greggio. Faccia forza la propagazione, sta già detto a settore, capito? Che faccia comprire, però è fatto forza, la parte si è di lontano. Ma se arrivi a un inglese, ho fatto proprio da me figliura, ho fatto proprio da... Ma è stata una mezz'oretta a fare il denne con Ciccio. Oh, sto figlio già lo parla di questo. Già lo capisce bene. A Vuglia ha detto che veniva dalla parte di non so come si chiama ed era vicino all'aeroporto, al terzo aeroporto. Oh. E noi parliamo solo in sardo però. Così. Dai, va bene, con Ciccio. Ha detto che era in ferie Ciccio. Oh. Quando si capisce l'inglese già tutta un'altra cosa, va. Ma l'inglese, ma che frase mi dici? Che ne riesco a capire, ma non più in salto, capito? Allora va bene, ma se non riesci a capire, lei cosa fai? No, c'è stata una mezz'oretta, c'è stata, la propagazione era forte. Ha detto che erano in Sardegna, Italia, Sardegna, l'ha detto, e ha detto che bel caldo è di notte. Una volta ho parlato con qualcosa, anni fa e ha parlato la Lasca, allora avevamo la Gampletto e la Faiette, certo. E siamo arrivati in Alaska. E mica imbattiamo la Gampletto, però si è da zia Basilio, imbattia, eh. Ah, sì, una Gampletto, grazie di Dio. Allora c'era la propagazione della diversa, non come adesso, certo. Ecco la propagazione, boh. Non so se magari sono gli apparecchi che non ricevono bene, perché prima mi sentivi perfetti, grazie, molto su un'altra cosa. Noi con questo fatto digitale non è che sia stato perfetto la radio, va? No, non è che sia il digitale, il fatto che la propagazione prima era più forte, ma invece anda e torna, anda e torna. Magari forse dirà fra pochi anni girerà e forse ci sentiranno anche più fuori, certo, perché io non so com'è questo fatto la propagazione, non lo so, so solo che prima era più forte e più chiara la si sentiva, ma invece ha avuti vai ha avuti Ginnanda, dipende da come gira l'aria. Io lo ammetto, cazzo, con Gianni Carlo Esprimetto, la metti Gianni Carlo Esprimetto? Sì, un sacco di volte, sì, se lui ha ciappato, ciappia, no, che ero col ciuffilo. Allora, lui aveva la 500, se non avevamo la notte della giocca, cazzo, la notte tardi, cazzo, parlavamo anche cazzo, alla parte di Cagliari, a Cagliari no, non siamo mai arrivati, però sulla provincia parlavamo anche in quella zona, insomma. In quelle zone lì già ci arrivi, da quella parte lì, già ci arrivi, però Cagliari è più qua, dai. Infatti, per dirti no, certo. La notte andavamo lì a notte della giocca, proprio, cazzo, ed arrivare fortissimo, anche la Corsica. La Corsica arrivava fortissimo. E infatti è così, purtroppo. Quando è così, la propagazione si chiude subito, si chiude. Va bene, insomma, io chiudo. Ci sentiamo domani se coincide. Ok, buon proseguimento. Grazie la chiacchierata a te. Ok, Giovanni, ci risentiamo alle prossime. Stammi bene e buona cena a tutti. Grazie a te, grazie a te, a te. Ciao, a te. Ciao Giovanni. Star, STAR, Illinois, small white, big audio, and I'm gone.